bocciato il ciclo di prove dell'anno scorso, poi con le repliche e ora con la ripresa ulteriore, quello che io ho notato la compagnia è stata una crescita enorme dal punto di vista attoriale. Veramente tutti gli attori sono messi in condizione di essere fortissimi in scena. Questo secondo me è il regalo da attore ad attore. Massimo porta meglio in dote da regista. Andando a concludere, Lino, parlavi prima di questo momento particolare del tuo percorso artistico, ti chiedo, ecco, questa stagione dove ti vedrà? Beh, al di là di varie uscite televisive Rai e dell'uscita di un altro film per il cinema, arriva nei prof, che dovrebbe uscire a marzo, mentre questa sarà la stagione dei sequel televisivi, non dell'anno capo, dall'Eva e la Porta Rossa, di cui si fanno i due di tutti, è l'anno del due. E io sarò anche due volte all'Argentina, ora con Ragazzi di Vita e poi a maggio con La Classe Operaia va in Parigi. Ah, beh, ci vedremo sicuramente. Perché con la compagnia di Modena, quella appunto che ho praticamente cofondato insieme a Claudio Longhi, attualmente direttore di Est, oltre che grande regista, abbiamo deciso di fare questo adattamento teatrale esploso, perché si tratta di una forte rivisitazione del film, appunto del film di Petri. Debutteremo il 31 gennaio a Modena, faremo un po' di tournée e arriveremo a maggio proprio di nuovo al Teatro Argentina, quindi ci possiamo vedere due volte, ecco, okay. 17 e 18. bene. Allora Lino, io ti ringrazio, è sempre un piacere, in bocca al lupo e a presto. Sì, a presto, grazie. Abbraccio, ciao.